Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, eccoci insieme. Come andrà oggi? Dai, andrà bene. Per partire con il piede giusto, oggi ho invitato per questo nostro appuntamento mattutino, che mi auguro ci dia un po' l'energia giusta, il passo giusto per affrontare la giornata, un grande amico della nostra trasmissione, un grande esperto, il professor Sergio Arari, che è direttore della pneumologia all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di medicina interna all'Università di Milano. Professor Arari, buongiorno. Buongiorno. Professore, noi stiamo allenandoci, attrezzandoci a convivere con il SARS-CoV-2. Sono mesi, no, che cerchiamo di farlo. Adesso c'è i casi stanno aumentando, insomma la marcia dei contagi non sembra rallentare. Il timore di una seconda ondata si fa sentire, anche perché ci guardiamo, no, un po' intorno, vediamo che la situazione in Europa non è certo buona. E professor Arari, un po' la paura aumenta, il timore di ritrovarci in una condizione come quella che tutti noi vorremmo dimenticare, lasciarci alle spalle, ma come sempre succede, l'esperienza insegna. E credo che questo sia un momento per fare un po' il punto sulla situazione, di quello che abbiamo imparato noi come cittadini, voi come società scientifica, come clinici, come ricercatori. Coinvolgo naturalmente anche le amministrazioni e le organizzazioni. Che cosa possiamo prendere dell'esperienza del marzo, che abbiamo vissuto in quei mesi bui, quando le terapie intensive erano sovraccariche, per trasferirla ai giorni nostri, in questo momento in cui stiamo capendo che possiamo fare la differenza, comportandoci in modo consapevole e facendo attenzione senza perdere la testa. Professore. Io credo che ci siano varie cose sulle quali è importante aprire una riflessione. La prima cosa che abbiamo capito è che in un mondo globalizzato quello che accade oggi in Cina domani si trasferisce in Italia. Questo abbiamo vissuto direttamente e lo vediamo quotidianamente con la pandemia. E quindi è importante avere delle politiche che considerino questa situazione, ed è importante che per esempio l'Unione Europea adotti poi delle strategie di sanità che siano comuni anche ai diversi paesi. L'Unione Europea in questa situazione è mancata totalmente, così come ha commesso molti errori l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui ruolo andrebbe in qualche modo ripensato. Abbiamo anche il problema, per ciò che riguarda l'Italia, di una regionalizzazione con la discussione che riguarda la riforma del titolo V della Costituzione e le competenze regionali, locali e invece centrali, su cui in maniera sanitaria anche qui bisognerebbe aprire una riflessione. Poi abbiamo degli aspetti che riguardano il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale è emerso come una struttura portante del Paese e anche dell'economia del Paese, e si è capito che questi anni di restrizioni e di tagli indiscriminati hanno determinato delle conseguenze che sono state vicariate solamente dalla buona professionalità, abnegazione e senso di appartenenza del personale medico, infermieristico e di tutti gli operatori sanitari, ma che necessita del supporto e dell'attenzione che gli sono stati poi riconosciuti solamente in questi mesi. Abbiamo poi imparato che non si può, davanti all'emergenza, improvvisare la scienza. La storia di idrossiclorochina è paradigmatica, è stata venduta come la panacea di tutti i mali e poi abbiamo scoperto che faceva più male che bene. Quindi il rigore scientifico va applicato in qualsiasi condizione, così come per esempio oggi una delle poche cure che si sono affermate, che sono i cortisonici, per lungo tempo sono stati avversati da alcuni specialisti, da alcune società scientifiche, senza solidi dati scientifici, supportando invece per esempio l'uso di antivirali che si sono dimostrati poi del tutto inefficaci. Quindi questo è solo per ribadire che la scienza ha delle regole e che queste vanno sempre rispettate in qualsiasi situazione o si rischiano di prendere degli abbagli. E poi dall'altra parte sicuramente è emerso in maniera chiara che dobbiamo ripensare le forme organizzative dei nostri ospedali in maniera molto più modulare e molto diversa da quello che abbiamo immaginato in passato, così come abbiamo imparato delle lezioni molto importanti della relazione fra uomo e ambiente. Abbiamo visto ritornare la Laguna di Venezia in situazioni completamente diverse, abbiamo rivisto i delfini nei nostri mari, quindi credo che questo sia un altro dato molto importante. E infine, per ciò che riguarda le scuole e le università, credo che quello che si debba fare è pensare non solo a un futuro fatto di, come dire, insegnamento a distanza, non si tratta solamente di questo, ma anche di ripensare la formula didattica alla luce di quello che sono oggi le nuove tecnologie e le nuove modalità anche che ci offre poi la modernità per affrontare appunto gli insegnamenti. Abbiamo anche capito che difendendo ciascuno la propria salute protegge anche quella degli altri, e questo io credo che sia un aspetto di cui noi dobbiamo prendere tutti consapevolezza e che probabilmente ci può aiutare a seguire quelle indicazioni che a distanza di mesi sembrano, no, a volte ci stanno un po' strette, magari ci chiediamo se davvero sono così utili, e mi riferisco alla mascherina, al distanziamento fisico, all'igiene delle mani, che sono cose molto semplici, così tanto semplici che molte persone nel tempo le hanno un po' perse o le hanno un po' disattese. Perché invece è importante, soprattutto in questo periodo, professor Harari, essere responsabili per sé e per gli altri? Io credo che sia un dovere civile oggi essere responsabili, un dovere civile oggi, per esempio, aderire alle campagne di vaccinazioni. Credo che dall'altra parte ci sia stato un processo mentale di un po' rimozione collettiva durante l'estate, ci si voleva lasciare alle spalle un brutto ricordo, cosa del tutto comprensibile, ma che purtroppo in parte stiamo pagando. Altri paesi europei stanno pagando più di noi, ma anche noi abbiamo visto dei segnali che ci portano oggi a ragionare su dei numeri sui quali avremmo voluto volentieri fare a meno. Professor Harari, abbiamo tante informazioni, si è parlato tanto sin dall'inizio di questa emergenza, di questo eccesso di informazioni che alla fine creano un po' di confusione, e un po' dalla lettura dei dati all'utilizzo della mascherina all'aperto, serve, non serve. Adesso anche si parla dell'importanza delle vaccinazioni, ma anche lì parliamo delle vaccinazioni, ma c'è il problema di garantire alle categorie protette di vaccinarsi, ma c'è poi tutto il resto della popolazione che potrebbe essere messo in grande difficoltà. Questo alla popolazione, al cittadino, crea abbastanza confusione. Allora, io credo che prima di tutto abbia fatto male la comunità scientifica a dividersi in una certa fase del dibattito su vari argomenti e rappresentare quindi qualche cosa che creava confusione verso invece quello che avrebbe dovuto essere un fronte comune totalmente trasparente di comunicazione e divulgazione scientifica. Per ciò che riguarda invece i vaccini, il problema è effettivamente aperto ed è anche un problema paradossale. Noi per anni abbiamo cercato di fare campagne per la diffusione dei vaccini, e nel momento in cui se le filava. Esatto. Nel momento in cui finalmente la popolazione si rende responsabile, con ogni probabilità ci troveremo in una situazione in cui sarà difficile garantire vaccini a tutti. Verrebbe da chiederle allora adesso che facciamo? Adesso manteniamo le misure che abbiamo imparato a essere efficaci. cerchiamo comunque di aderire alle campagne di vaccinazione, che aderiamo all'app Immuni, che è molto importante, e stiamo tutti con un senso profondo di responsabilità civile verso la salute di noi stessi e di chi ci è vicino. E a proposito di adesso che facciamo? E adesso cosa mangio? Vi ricordo la nostra iniziativa, la bufala in tavola. Potete utilizzare per mandare un WhatsApp vocale il 335-803-4306 per porre i nostri ospiti, i nostri esperti, i vostri dubbi, le vostre domande relative alla relazione tra cibo e salute. Potete naturalmente utilizzare questo canale. Vi ricordo, a proposito di nuova quotidianità, che al sabato l'appuntamento è con i ricercatori del centro Engage Minds Hub della Cattolica, con cui riprendiamo ad affrontare le sfide di questa nuova quotidianità, trovando gli attrezzi giusti per prepararci emotivamente ad affrontare le giornate che ci attendono. Grazie, trovate tutto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. C'è Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Oggi sono molto felice di aver avuto il professor Sergio Arari con noi, che invitiamo a tornare prestissimo a trovarci. Grazie a voi. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.